edizione. Ed eccoci qui, sono le 6:15, buona giornata ancora da Anna Migliorati, è tempo di prima edizione, le ultime notizie della notte, della tarda serata, lo sguardo ai giornali come sempre, e avremo anche oggi tanti ospiti e tanti collegamenti in diretta fino alle 7 per poi cominciare la lunga maratona di GR24 del mattino. Cominciamo da uno sguardo alle agenzie, non ci sono moltissime novità rispetto a quelle che già vi abbiamo dato poco fa nel corso di GR24 edizione delle 6. Tranne che un soldato delle forze speciali neozelandesi è stato ucciso in Afghanistan. L'annuncio è arrivato poco fa, questa mattina era in corso un blitz e durante alcune operazioni c'è stata una vittima, un soldato neozelandese. Ma vediamo ai giornali, alle notizie che ci aspettano nella giornata di oggi, quelle che hanno dominato la giornata di ieri. Un tema innanzitutto, allora già vi dico, vi ricordo ancora, c'è stato questo lungo vertice nella notte tra Berlusconi e Bossi, da cui sono emersi molti temi e torneremo a parlarne, come vi abbiamo promesso, con Valeria De Rosa per capire un po' più di quello che già c'è sui quotidiani, perché il vertice in realtà si è concluso attorno alle 2:30 di questa notte, vertice, prevertice e dopo vertice, perché ci sono stati diversi incontri nel corso della tarda serata. Ma cominciamo a vedere intanto cosa riportano i giornali, a cominciare dal Corriere della Sera. Banca d'Italia, ultimo scontro. Saccomanni vicino alla nomina, ma Tremonti insiste su Grilli. Il riferimento questo è l'incontro, non dicevamo tra Bossi e Berlusconi, ma invece un altro vertice importante tra Berlusconi e Tremonti, lungo colloquio tra il ministro dell'economia e il capo del governo dopo la freddezza dei giorni scorsi. Oggi si attende la decisione definitiva appunto per il futuro di Banca Italia con l'addio di Draghi che va alla Banca Centrale Europea. Centro pagina, la notizia di cui noi abbiamo ampiamente parlato ieri mattina, ipotesi favoreggiamento per Berlusconi a Bari, sabotatori contro di me. Secondo il Tribunale del Riesame di Napoli, il Premier sapeva che le ragazze portate erano escort. L'inchiesta è l'inchiesta Tarantini, ovviamente. La Stampa, anche qui stessa scelta, l'apertura sul braccio di ferro su Banca Italia. Sulla crescita, tregua Berlusconi-Tremonti, ma scoppia il caso del dopo Draghi e oggi sarà sicuramente uno dei temi in primo piano. Volano le borse, bene la Stabot, i listini globali scommettono sulle misure per affrontare la crisi. È l'apertura questa mattina del Sole 24 Ore che riserva il centro pagina al braccio di ferro sulla Banca d'Italia. Dopo il vertice Berlusconi-Tremonti, tregua armata sulla collegialità. Questa è l'indicazione che arriva dal Sole 24 Ore, il punto di Stefano Folli, il titolo è già indicativo, una spina che resta. La Repubblica, la scelta è diversa, l'apertura è sull'inchiesta Tarantini, Berlusconi ordinava di mentire, l'accusa del Tribunale sapeva che erano escort, il Premier dice mi sabotano. Banca Italia, no di Tremonti a Saccomanni, tregua armata anche qui nel vertice con il Presidente del Consiglio, invece il taglio centrale per la Repubblica che punta anche su altro, crisi, la Merkel respinge il pressing di Obama, arriva la Tobin Tax europea, anche questo sulla prima pagina quest'oggi della Repubblica. Altre segnalazioni dai giornali di oggi, restiamo sulla Repubblica, il sindaco di Napoli, vieteremo le feste dei boss, Apple a Napoli dopo la festa per un boss nei giorni scorsi. Già vi anticipo che a prima edizione avremo in diretta questa mattina il vice sindaco di Napoli, allora chiederemo anche a lui che ne pensa, anche perché anche sempre su Napoli apre quest'oggi anche la Padania, basta rifiutiamo Napoli, l'emergenza è un pozzo senza fondo, adesso ci tocca pagare anche la multa, la notizia è quella dell'Unione Europea che mette in mora il Napoli, questo sulla Padania, dicevo ne parleremo più avanti. Altre notizie da segnalarvi, dalla Stampa, il sud diventa terra per vecchi, un giovane su tre è disoccupato ed è costretto a emigrare, chi resta sarà travolto dagli anziani, così il rapporto Svimez pubblicato ieri. E poi si scava dalla Francia, c'è l'accordo sui costi della TAV, il tunnel sarà aperto con inizio lavori 2013, la Liguria dice meglio il terzo valico, approfondimenti questa mattina pagina sulla stampa. Uno sguardo come sempre anche ai quotidiani esteri, di che parlano gli altri. Il Times: la tempesta perfetta di droghe uccise Jackson. L'immagine che apre il sito del Times questa mattina è quella del processo a carico del medico di Michael Jackson, accusato di omicidio involontario per aver amministrato un'overdose di sedativo alla pop star nel giugno del 2009, quando morì. Ma i giornali tedeschi ci riservano un'altra notizia. Su Deutsche Zeitung questa mattina: Raid a E.ON e Gazprom Germania. Il garante della concorrenza europea, scrivono i giornali tedeschi oggi, mette sotto esame i principali fornitori di gas in Europa. Il sospetto è che abbiano concordato il prezzo di gas per impedire ai concorrenti di entrare sul mercato. Perquisizioni ci sono state anche in Germania, ma potrebbero esserci anche in altri paesi. Anche il Der Spiegel apre così: sospetta violazione delle norme antieuropee sotto indagine le società del gas. Più sotto il Der Spiegel torna ovviamente sul voto importante atteso per domani in Germania, voto sul pacchetto di salvataggio. La Merkel sta lottando per ogni voto. Angela Merkel, scrive oggi Der Spiegel, può respirare ma solo un po'. L'ultimo test prima del voto parlamentare sul pacchetto di salvataggio dell'euro sarà domani. Ci sono stati pochi dissidenti nella coalizione, ma la maggioranza è stretta, e non solo la Germania, tutta l'Europa guarda a quel che accadrà in Germania. Chiudiamo i giornali, chiudiamo i siti esteri per tornare alle notizie della notte. Allora, con Valeria De Rosa, come vi dicevamo, torniamo a fare il punto su quello che è emerso dal lungo vertice politico di questa notte per quel che riguarda l'Italia. Allora Anna, possiamo raccontare un po' di più? Dicevamo, un vertice che si è svolto nella tarda serata, è durato poco più di 2 ore, e Silvio Berlusconi aveva bisogno di riprendere un po' in mano il comando della situazione. Ha incontrato Bossi, ha incontrato Tremonti e sono stati tutti d'accordo nella necessità di agire rapidamente. Bisogna trovare misure per la crescita da mettere in campo entro 2 settimane, probabilmente si concretizzeranno in 3 decreti, infrastrutture, semplificazione e sviluppo, che potrebbero anche essere accorpati in un unico provvedimento. Si è parlato anche della riforma previdenziale, ma per l'ennesima volta il carroccio ha fatto muro. Pare che comunque di questo tema non si sia dibattuto molto a lungo, quindi nessuno si è stracciato le vesti, se così possiamo dire, perché oggi c'è il voto sul ministro Romano e evidentemente il presidente del Consiglio non aveva intenzione di agitare molto le acque. Prima di un voto che è comunque importante, è un altro banco di prova per il governo. Da più parti si dice che probabilmente queste misure avranno bisogno di un po' più di tempo, il prossimo Consiglio dei Ministri le vaglierà, ma probabilmente poi vedranno la luce entro la prima metà di ottobre. Di poco si sa di quanto ci sarà all'interno di questi decreti. Possiamo però dire che prima di questo incontro c'era stato l'attesissimo faccia a faccia tra Berlusconi e Tremonti, a Palazzo Grazioli sempre. Questo dicono dalle fonti del Ministero del Tesoro, sarebbe stato un ottimo incontro, quindi avrebbe sancito una sorta di tregua, anche se lo scontro c'è stato e c'è stato sul successore di Banca Italia. Draghi tra pochissimo andrà alla Banca Centrale Europea. Sembrava che Tremonti avesse fatto un passo indietro e invece è tornato alla carica. Il suo candidato è Grilli è l'attuale direttore generale di Via 20 Settembre, mentre il Premier spinge per Fabrizio Saccomanni, che è direttore generale di Banca Italia. Diciamo che Berlusconi spinge per Saccomanni non tanto perché è legato, diciamo, personalmente da un vincolo, ma perché Saccomanni intanto è appoggiato dal Presidente della Repubblica, ma è anche un uomo, un nome molto ben visto a Francoforte. È una persona che ci potrebbe dare un aiuto in Europa. In Europa, sì. E questo resta comunque sempre fondamentale, il passaggio in questo obbligato. Momento. Grazie a Valeria De Rosa. Gli ultimi aggiornamenti della notte sono questi. La giornata è lunga e la giornata politica sicuramente riserverà altre sorprese, ma queste sono le ultime notizie della notte, come nostra abitudine a prima edizione. Così come abitudine a prima edizione, darvi anche conto di quelle che sono le serate calcistiche, e in Europa in questo momento davvero restiamo. Le agenzie della notte ci hanno informato, tra l'altro, che l'Inter è rimasta bloccata a mezz'ora all'aeroporto di Malpensa per un disguido al controllo passaporti, nel quale ore della notte i giocatori al rientro dalla trasferta a Mosca hanno dovuto pazientare a lungo prima di poter superare i controlli e poter rientrare a casa. Questo però non dovrebbe aver rovinato la festa. Dario Ceccarelli, buongiorno. No Anna, buongiorno a tutti. No, credo anzi che tutto sommato sia stata un'occasione così per fare una specie di brindisi, visto che dopo tante delusioni, in quattro giorni due vittorie, insomma, per l'Inter sembra che si sia voltato pagina. A Mosca ha battuto il CSKA con un 3-2 che tra l'altro viene suggellato da un gol di Zárate, che era un po' l'oggetto misterioso dell'Inter, arrivato in dote con Gasparini, e quindi diciamo che questo secondo successo di in quattro giorni dà un'altra lucidata allo stellone di Ranieri, perché insomma la situazione è completamente cambiata. La partita è stata vinta più con l'orgoglio che con un grandissimo gioco, però alla fine si è vista l'Inter che conosciamo, cioè con una squadra con una campione in grado di reagire anche alle situazioni più complicate. L'altro bel risultato. Non c'è solo l'Inter, ecco. La Gazzetta dello Sport, il titolo questa mattina è Napoli-Leoni. Sì, stamattina. Di nuovo festa anche al San Paolo. Sì, ormai stamattina i giornali l'abitudine. Si sono prodigati in fantasia. Zárate di Russia era il titolo della Gazzetta a proposito del gol di Zárate, e invece per il Napoli, Napoleone. Insomma, siamo andati sullo storico. Fortunatamente ci si diverte un po', anche perché sennò di calcio sembra che ormai sia diventato più complesso o più a volte angoscioso che dei temi della crisi economica. Invece questa è stata una bella serata anche per il Napoli, tutto in quattro minuti hanno segnato Hamsik e Cavani su rigore, hanno diciamo piegato il Villarreal, che in questo momento non è una squadra che in Spagna fa sfracelli, però è un bel segnale, anche perché il Napoli guida uno dei gironi più difficili e in precedenza si era anche già fatto applaudire col Manchester City, e quindi insomma sembra che il Napoli sia più intenzionato a far bella figura in Europa che così in Italia, che era uno dei desideri del suo presidente. E grazie a Dario Ceccarelli. Prima edizione. E alle 6.34 è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. È il 28 settembre, vi parla Daniele Biacchissi. Il 9 ottobre Filippo Penati sarà interrogato dai PM di Monza. Al centro dell'inchiesta l'acquisto del 15% di azioni dell'autostrada Milano-Serravalle del gruppo Gavio, 240 milioni. Il primo a sollevare sospetti sull'operazione Serravalle fu l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, che ne parlò direttamente con l'ex procuratore di Milano Gerardo D'Ambrosio, ora senatore del Partito Democratico. Lo ha intervistato per Italia in controluce Raffaella Calanda. Consigliai proprio ad Albertini di presentare denuncia alla Procura della Repubblica, perché effettivamente sono le vicende strana. D'altra parte io mi ero occupato in precedenza del caso Calvi, anche lì c'era stato un acquisto quando c'era un patto di sindacato che dava la maggioranza ed erano state pagate un sacco di soldi di azioni, e infatti ci fu un processo. Quindi erano un po' meccanismi che le richiamavano quei meccanismi della vicenda Calvi? No, richiamavano quei meccanismi là, strani. Quando già si raggiunge la maggioranza col patto di sindacato, non riusciva a capire perché la provincia volesse gestire da solo la Milano-Serravalle, cioè è una cosa abbastanza strana. Da quello che mi fu riferito dal sindaco Albertini capì che era una vicenda abbastanza singolare, insomma non si comprano con una differenza di prezzo che era notevole. Era quasi il doppio, sì. D'altra parte già in precedenza era successa la stessa cosa con la Colli. Effettivamente c'era questa volontà di gestire in via esclusiva la Milano-Serravalle, si dovevano appaltare diversi lavori. Si riscuotevano anche soldi, insomma era una cosa importante. Ora, considerando che poi questa vicenda si è intrecciata, anche se molti dei protagonisti diciamo smentiscono, con tutta la questione della scalata Unipol BNL attraverso il ruolo di Gavio, ma secondo lei potrebbero essere diciamo prevalse delle logiche di tipo affaristico? Se fossero prevalse queste logiche, e siamo in una fase di indagini preliminari e viene negato da tutti, credo, se fossero rivaste queste logiche, capisce bene che io come ex magistrato mi dimetterei immediatamente dal, dal Partito Democratico, me ne andrei. Se dovesse venire fuori una cosa del genere, trarrei le mie conseguenze. Fosse coinvolto l'intero partito per una logica di tangente, capisci che io a questo punto no, avrei i miei problemi per restare in un partito di questo tipo e per restare nello stesso gruppo parlamentare. E se invece fosse rinviato a giudizio, Penati? Leggerei attentamente il rinvio a giudizio e poi deciderei di conseguenza. Italia in controluce, torniamo oggi 13:30, Radio 24. Come sempre Daniele Biacchessi, grazie anche a Raffaella Calandra. Prima edizione, voltiamo pagina come spesso ci capita e andiamo in Libia. C'è stata ancora una notte di combattimenti, le milizie del Consiglio Nazionale di Transizione Libiche sono ormai a Sirte, combattimenti duri anche questa notte con i ribelli impazienti di mettere le mani sulla città natale di Gheddafi e dare finalmente inizio alla ricostruzione, dicono, del paese. Ma dall'altra parte Gheddafi non si dà per vinto, annuncia di essere pronto al martirio, ma anche a colpi di coda dell'ultima ora. Uno shock inatteso aspetta questa cricca di servi, così ha detto Gheddafi in un messaggio diffuso da una radio a Bani Walid, una delle due roccaforti del colonnello nel nord del paese. Io saluto Marco Giacconi, Centro Studi Strategici. Buongiorno, grazie per essere in diretta con noi. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, cos'è? Innanzitutto partiamo come sempre dalle ultime notizie, vale a dire da questo messaggio di Gheddafi, duri combattimenti ancora anche nella notte, un ultimo colpo di coda di Gheddafi a Sirte, siamo alla resa dei conti o sarà ancora lunga? Questo è difficile dirlo sulla base dei fatti anche di stanotte, ma certamente Muammar al-Gheddafi venderà cara la pelle. Perché Sirte e Bani Walid, che poi è un po' come dire la capitale dei Warfala, della tribù più importante, è un'area in cui si concentrano fra l'altro le riserve provate maggiori del territorio libico, un'area strategica, oltre che l'area della fedeltà tribale a Gheddafi e alla sua famiglia. Quindi non sarà facile certamente per gli uomini del CNT sedare la rivolta nella Sirte, indipendentemente dalla presenza o meno di Gheddafi. Perché la costa libica è una cosa, ci siamo detti più di una volta, all'interno è un'altra. Giacconi, la Libia avrà un governo entro una settimana, aveva detto a New York Jibril, il numero 2 del Consiglio Nazionale di Transizione, era il 21 di settembre, oggi è il 28. Perché questo ritardo? Perché il CNT è composto da anime molto diverse, spesso anche molto lontane tra di loro. I componenti del CNT vengono per esempio dalla Lega Libica dei Diritti dell'Uomo, la parte come dire, più liberale, che ha sede a Londra, quindi ci siamo già capiti dove andiamo a parare. Altra area del CNT è legata, anzi è emanazione diretta, del Fronte Nazionale per la Salvaguardia della Libia, che ha sede a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, quindi un'area fortemente religiosa dell'opposizione Gheddafi. Poi ci sono i monarchici sunniti, la cui sede insomma, Riyadh. Gheddafi in qualche modo teneva unite anime che a questo punto sono divise. Questo è il grosso nodo della Libia. Un conto è la ribellione, un conto è ritrovare un'unità diversa. Assolutamente. E Gheddafi però li teneva unite con questa dazione di denaro, di potere agli uomini che in qualche modo si adattavano al suo regime. Dall'altra, sapete, con una repressione militare e civile straordinaria. Però a questo punto il CNT appare sempre più diviso col passare dei giorni e delle ore, al di là dei combattimenti a Sirte. Sì, no, ma probabilmente il CNT, quando sarà sedata la rivolta dei Gheddafiani, il CNT romperà le righe e andranno rapidamente alle elezioni e le varie anime e i vari personaggi che sono emersi in questi ultimi tempi del CNT faranno i loro partiti e sul piano elettorale se ne daranno le sante ragioni. Grazie a Marco Giaconi, Centro Studi Strategici. Grazie e buona Centro giornata. Militare di studi Centro strategici. Militare di Studi Strategici. Buona giornata. Torniamo in Italia, andiamo a Napoli, ve l'avevamo promesso già all'inizio di prima edizione. Io saluto il vice sindaco di Napoli, Tommaso Sodano, buongiorno. Buongiorno. Vice sindaco, le leggo l'apertura della Padania di questa mattina. Basta, rifiutiamo Napoli. Spazzatura, l'Unione Europea mette in mora tutto il paese. L'emergenza è un pozzo senza fondo, adesso ci tocca pagare anche la multa. Giovedì probabilmente, domani probabilmente arriverà l'ufficialità di tutto questo. Riguarda il piano della regione, non riguarda voi. Fatto sta che ci risiamo un'altra volta. Diciamo, non è esatta la lettura che fa la Padania, diciamo che c'è un problema per i ritardi degli anni passati rispetto ai quali l'Europa aveva avviato una procedura di infrazione, adesso ci sarebbe questa nuova nota, insomma la messa in mora, che non significa ancora la sanzione. Credo che dovrebbero dare 60 giorni entro in cui dimostrare carte alla mano che in campagna si è voltato pagina. Ora, io sono stato molto critico rispetto al piano regionale nei mesi scorsi, perché credo che ancora ci siano dei limiti, ci siano delle, come dire, anche delle mancate risposte alle sollecitazioni che arrivavano dall'Europa. Ma insomma, oggi la situazione in Campania, pur non essendo ancora definitivamente affrontato e risolto il tema dell'emergenza, non siamo alla situazione degli anni passati. La preoccupazione anche della Padania rispetto allo sperpero di denaro pubblico, possiamo dire che in questo momento è assolutamente stoppata, non ci sono. Non c'è la situazione che purtroppo la Campania ha vissuto negli anni scorsi. C'è un tema su cui c'è anche un punto di differenza tra il Comune e la Regione, perché credo che il piano dovrebbe, con un po' di più di coraggio e di celerità, affrontare meglio i nodi strutturali che l'Europa ci ha sostanzialmente per la rincorsa all'emergenza, insomma, sostanzialmente ci bacchetta. Basta emergenza, usiamo i fondi strutturali per cominciare a ripartire. Le notti scorse è stato un susseguirsi ancora di roghi di rifiuti. Va meglio? Com'è andata? No, guarda, io veramente, questa è questa lettura che ho fatto anche di alcuni giornali, alcune agenzie, è veramente un po' anche, come dire, un'azione di sciacallaggio, veramente tutto ingiustificato. Ieri ci sono state segnalate 10 roghi, ma erano due di questi legati a una manifestazione che c'era a Napoli, e non c'è assolutamente la situazione che si è conosciuta gli anni scorsi. Napoli noi l'abbiamo ripulita ai primi di agosto, come avevamo un po' anche promesso. C'è, continua a esserci una situazione di un deficit di impianti che, rispetto ai quali non abbiamo responsabilità, perché siamo da pochi mesi. Ci sono stati invece questi piccoli giochi, ma la situazione in questo momento è di poco più di 150 tonnellate complessivamente nella città di Napoli, fra centro e periferia, legati a uno sciopero selvaggio che c'è stato la settimana scorsa, improvviso, non preannunciato. Che... Quindi nulla a che fare con le questioni strutturali. Prima edizione. E noi torniamo col vice sindaco di Napoli, Tommaso Sodano. Vice sindaco, un'altra domanda, un altro tema. Vieteremo la festa dei boss. Sui giornali oggi ci sono queste dichiarazioni del suo sindaco, di De Magistris. L'ira dopo il corteo in Rolls Royce per un boss. Che farete? Questa è una cosa che non abbiamo visto. È una festa molto popolare, molto sentita, però non è la prima volta anche a Napoli che ci sono queste forme anche di rispetto, tra virgolette, per i boss, per cui davanti a questa, alle immagini, al video, alle comunicazioni che abbiamo avuto, è evidente che noi non possiamo certo consentire che la città di Napoli, che con la nuova amministrazione ha chiuso definitivamente col passato e fa del tema della legalità e della lotta alle all'inquinamento. Il video è sul sito dell'Espresso, ah? Esatto, esatto. Quindi voglio dire, davanti a questo porremo il problema al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, insomma, se sono confermate e se non ci sono tutte le garanzie, insomma, noi siamo perché si vieti la manifestazione, cioè non si può fare una manifestazione in cui si può sfineggiare a un boss, insomma, questo non è compatibile con la nuova etica della politica. Avete già fatto la richiesta al prefetto? Guardi, ieri io e il sindaco abbiamo avuto due giornate separate, nel senso impegnate in fronti diversi. Non lo so se materialmente è stata fatta, ma insomma questa è basta una comunicazione di poche, cioè stamattina parlerò col sindaco, insomma, può darsi pure che sia già partita ieri, non ne sono a conoscenza, ma credo che l'orientamento è questo, insomma, ecco. Grazie al vice sindaco di Napoli Tommaso Sodano, grazie e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Un aggiornamento dalle agenzie, vi abbiamo raccontato prima del blitz scattato proprio in questi minuti all'alba nel bresciano maxi blitz contro la 'Ndrangheta per il traffico di droga. L'aggiornamento dice che il gruppo aveva anche propositi di vendetta verso magistrati del distretto giudiziario di Brescia ritenuti responsabili del sequestro e della confisca di beni patrimoniali della 'Ndrangheta. Il maxi blitz è scattato, vi daremo tutti gli aggiornamenti come sempre in GR24 con le notizie delle ultime ore. Mi ha raggiunto nel frattempo Alessandro Milan, buongiorno. Eccoci, buongiorno a tutti. Allora, che ci dici dai giornali di oggi? Ma i giornali di oggi raccontano alcune storie particolari, ne cito un paio. La prima è quella di Salvatore Riina Junior, il terzo genito di Totò Riina, che domenica uscirà dal carcere di Voghera, ha scontato 8 anni di carcere, e andrà a vivere al nord, a Padova, lavorerà per una onlus. Il Corriere della Sera racconta la sua storia con anche la mamma che dice: almeno uno dei tre lo voglio salvare. Mio figlio starà lontano dalla Sicilia, come se poi insomma star lontano ci sono i telefoni. Ma comunque insomma questa storia sta creando polemiche perché insomma a Padova qualcuno non lo vuole. C'è questa polemica qui. E poi la Repubblica racconta di una ricerca scientifica secondo la quale, forse ti interessa Anna, visto che sei anche mamma, si può dire? Sì, certo, si può dire, certo. Che esistono i figli prediletti dai genitori. I figli non sono uguali. Aia. Noi genitori facciamo preferenze e c'è chi sceglie il maggiore, c'è chi sceglie il minore. L'ho letta anch'io. L'articolo dice: figli maggiori non leggetelo, figli minori non leggetelo. Sì, perché io vi dico due. Mamme, non leggetelo, perché i sensi di colpa sono tanti. Vabbè, comunque i figli non sono uguali. Esiste il prediletto di mamma e papà, quindi ammettiamolo, è così. Vabbè, vivremo forse più serenamente. Tutto qui ovviamente c'è tanta politica, economia anche. Questo dai giornali, grazie Alessandro Milan, spazio ampio come sempre poi per la lettura dei giornali alle 7:20 dopo GR24, dopo GR Sport. Allora siamo tutti qui, Alessandro Milan, Alessandro Longoni in regia con Peter Bescapè, da Anna Migliorati ancora una buona giornata, ma noi ci risentiamo tra poco perché ci sono subito le ultime notizie, subito dopo il Gazzettino del Risorgimento, le ultime notizie come sempre di GR24, prima edizione, finisce qui, buona giornata. We'll be right back.